nuovo in diretta dagli studi di Via Zanardi, ultima puntata, non solo per quanto riguarda il Breakfast Club, ma anche per le rubriche, ovviamente, che corredano il format mattutino di Radio Città Fujiko, come la neonata Altri Suoni. Quelle sonorità che difficilmente arrivano sulle frequenze consuete, quei suoni che danno un aspetto ulteriormente diversamente normale e che magari scatenano diverse microsensazioni. Abbiamo già conosciuto la berlinese, la tedesca More Music dell'ingegnere Thomas More. Io lo definisco un ingegnere perché la sua capacità di ricerca è così precisa e anche la capacità di proporre sonorità che apparentemente sono nel recinto dell'elettronica, ma che variano per quanto riguarda la narrazione anche nel pop, nell'ambient, nell'IDM, in quella che viene definita, è stata definita nell'inizio 2000 indietronica, indipendente elettronica. Non amo questo termine, ma come ben sapete, a volte per definire alcune sonorità si ricercano anche delle definizioni che sono discutibili. Ecco, ciò non toglie che la qualità nelle selezioni musicali della More Music, certamente un'altezza e una curiosità anche vi è stata e continua ad essere. Per quanto riguarda il glitch pop, abbiamo conosciuto la Lipuna, abbiamo conosciuto gli islandesi Mum dal Belgio, Styrofoam e anche altre sensazioni magari più ambient e post rock come Wexel Garland, B. Fleischman, un'etichetta molto vicina alla More Music, magari questa ancora più specifica che è la City Center Office. E concludiamo con un disco che secondo me è uscito esattamente nel 2000, è un LP doppio per la More Music che è un po' il manifesto delle sonorità ambient IDM indietronica per l'etichetta di Thomas More. Iniziamo dal tedesco appunto Christian Klein, che nell'ambient, nel tappeto sonoro, aggiungendo la sua capacità di composizione, la curiosità di introdurre l'aspetto acustico, lui è un chitarrista, anzi ce lo ascoltiamo subito con il brano di apertura all'interno di questa etichetta e all'interno di questo doppio LP che è un po' manifesto, se vogliamo, delle sonorità che ho appena descritto. Ha un titolo molto particolare, dopo vi dico anche tutto, titolo del brano. Vi posso dire che lui è Christian Klein, che la label di oggi è la More Music e che è l'aspetto più ricercato, raffinato, ambient di questa indietronica. A tra poco, buon ascolto. quanto avvolge e distende allo stesso modo, è un tappeto ritmico e un'eterogeneità di frequenze che si snodano con armonia sotto l'elementare, apparentemente elementare, reiterarsi di queste sonorità. Chitarrista tedesco Christian Klein, collaboratore Hermann Klein, il duo che lavora per More Music in questo caso è lui solista, e ce lo stiamo ascoltando con il brano Bitter Things, le cose più amare o da amare, non so. In questo caso è amaro, in quanto bitter, tradotto letteralmente, ha un significato inequivocabile. È una raccolta di remix e di inediti, di lavori che sono usciti solo per il lavoro, che ha un titolo molto particolare, è la 12ª uscita per le pubblicazioni More Music, Putting the More Back in Morrissey. Questo è il titolo abbastanza curioso, come le sonorità di una collaborazione di due artisti di musica IDM elettronica che a me piacciono tantissimo. Phonem è il nome del progetto, lui è Elliot Perkins, molto strutturato, anche molto, se vogliamo, così non immediato, ecco, mettiamola più. Mentre invece Arovane, tedesco, allora Elliot Perkins inglese per Erwin, che porta nome all'anagrafe Uwe Falz, mi pare, adesso non so se l'ho pronunciato bene, ovviamente tedesco, per l'insieme tra i tappeti di musica ambient e questa ritmica, se vogliamo, molto profonda. Il brano sempre tratto da questa collezione da label More Music. Entrambi hanno lavorato anche per la Vertical Form, una label sul quale magari faremo approfondimento in prossime puntate di altri suoni. Phonem, per il nome all'anagrafe di Elliot Perkins. Uwe Pfalz, adesso sapete la pronuncia tedesca, non so se è precisissima, invece per Arovein. Concludiamo questa mini selezione tratta dalla 12ª pubblicazione. Thomas More decide di dare un tributo, se vogliamo, alla stessa label con un doppio LP di inediti. Chiudiamo coi No Twist. Ecco, qui c'è già uno sguardo più pop. Marcus Acker, che è un musicista polistrumentista, già nei Titled Trio che abbiamo conosciuto tra il jazz e il post rock, in questo caso concluderà la nostra mini playlist per dare lo sguardo più completo possibile, seppur con soli tre brani, alle sonorità indietronica. Siamo nel 2000 circa, anzi non circa, esce nel 2000 questo doppio lavoro. E conclude così anche la rubrica Altri Suoni per la stagione 2022-2023. Fatemi sapere. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza, per l'ascolto e ovviamente, beh, se sarà il caso, la riprenderemo anche nella prossima stagione. Intanto vi aspetto al 333-180-9494 al termine del brano pubblicità, dopodiché si rientra ultima puntata dei Magazine, rassegna stampa culturale tratta dai principali allegati e inserti vicini ai principali quotidiani, a tra poco, usciti nel weekend.